This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. E benvenuti anche quest'oggi a This is not an exit. Anche questo sabato 6 dicembre, dico bene, cari collaboratori? Sì, così sembra, o no? Poi ci guardiamo il calendario, stamattina non ci ho pensato. Dai, babbe, che domande sono? 6 dicembre? 7 dicembre. Così a freddo, no, ti prego. Comunque, benvenuti a tutti i nostri ascoltatori. In realtà siamo sempre lì tra 88 e 93, qui a This is not an exit, torniamo in lande già esplorate ampiamente. Abbiamo un po' una fissa, a dire il vero, però siamo sì, la California ci piace, è che probabilmente è un desiderio inconscio di andare ad abitare in quelle lande. Sognando anche se poi... California, esatto. C'è la canzone. Ti prego, no. California dreaming, però non siamo in Mamas quegli anni. Papas. Sì, ma non siamo in quegli anni, il sogno californiano era già andato, vero Matteo? Abbiamo un ospite oggi. Certo. Qualcosa era cambiato, oggi non parliamo di Mamas and Papas, ma di Henry Rollins. Esatto. Che non è proprio la stessa cosa. E nello specifico di The End of Silence, il suo disco che esce il 25 febbraio 1992, diventa molto presto il suo disco più venduto. Erano anni in cui quel genere andava molto forte, un misto tra funk, jazz, blues e metal anche. E cominciano i tour senza soluzione di continuità, sempre più in palasport, sempre più gremiti, e culminano in un tour di spalla ai Red Hot Chili Peppers, che passerà anche per l'Italia, per la precisione a Firenze e a Roma, mi pare. Non gli è piaciuto molto però stare in Italia. Per niente, questo... Cos'è che diceva? Viene fuori in una sua raccolta di diari, lui ha sempre tenuto dei diari privati fin dai tempi dei Black Flag, e in un diario che ha scritto durante la sua permanenza in Italia dice: quando anche la merda non funziona capisci che sei in Italia, perché erano stati, diciamo, una loro data era stata fissata in uno stadio che era stato costruito di fianco a un convento di suore, e il convento di suore li aveva obbligati a tenere il volume sotto i tipo il 30% della capacità dell'impianto, quindi hanno dovuto suonare a volumi bassissimi, e anche i Red Hot Chili Peppers era stato riservato lo stesso trattamento, e quindi questa roba qui è stata considerata da loro quasi un affronto, e quindi lui aveva giurato che non sarebbe mai più tornato in Italia a suonare, e poi si è rimangiato la parola molto presto, nel giro di 2 anni era di nuovo qui. Tutta gente molto conciliante, notoriamente, sì. Red Hot Chili Peppers, Henry Rollins era una bella bestia palcoscenico con i suoi bei problemi anche. Esatto, il disco è uscito a febbraio 1992, come strana coincidenza il disco più introspettivo, brutale della Rollins Band, e pochi mesi prima era stato ammazzato il suo migliore amico davanti ai suoi occhi, perché entrambi erano stati rapinati a Venice Beach mentre stavano tornando da un video noleggio, pare fossero stati prima ancora a un concerto delle Hall, e dopo si erano fermati a un video noleggio per noleggiare un film, mi pare Rocky 4, comunque una gran cagata. E stavano tornando a casa per vedere questo film e sono stati fermati da dei delinquenti che credo non siano mai stati identificati, e li fanno sdraiare a terra, li rapinano, avevano pochi soldi con sé, e erano Henry Rollins con il suo migliore amico e roadie, Joe Cole, e li fanno sdraiare a terra e a Joe Cole sparano direttamente in testa, e Henry Rollins si salva perché dal momento in cui capisce che gli sarebbe toccata la stessa sorte si alza e scappa via, però vivrà per tutto il resto della sua vita con questo rimorso e la, diciamo, presenza costante di Joe Cole nella sua vita. Nel 1993 scrive una serie di raccoglie una serie di diari nel suo libro Now Watch Him Die, in cui parla di tutta questa vicenda. Yeah. Siamo sempre qua con il nostro buon Henry Rollins. Ricordo, per chi non conoscesse Henry Rollins, abbiamo dato per scontato che tutti lo conosciate, ma non è così probabilmente. Henry Rollins, ex cantante dei Black Flag, e chi non conosce i Black Flag, Black Flag sono stati uno dei più importanti gruppi punk hardcore californiani, dico bene, dottor Corrias? Sì, sono stati, è considerato uno dei fondamenti, insomma, nonché la sua amicizia con sto tizio dei Minor Threat, che non passa di certo inosservato. Sì, era amicone con Ian McKay. Sì, sì, infatti lui a quanto sembra che l'ha iniziato al canto, insomma, negli ambienti punk hardcore. Henry Rollins era un impiegato in un negozio di dischi. Sì, sì. Poi a un certo punto va a un concerto dei Bad Brains e dice no. Di gelati, per la precisione. Di gelati? Lui vendeva gelati. Il gelataio. Sì, sì, sì. Infatti per andare a vedere un concerto di Black Flag aveva preso neanche aveva scambiato i turni con il suo collega, aveva preso la macchina, era andato al concerto, aveva fatto un dritto, la mattina dopo era andato a lavorare senza aver dormito, e quindi al concerto di Black Flag durante i bis gli chiede suonatemi un pezzo perché io domattina devo andare a lavorare. Il pezzo era Clocked In e Henry Rollins sale sul palco e lo canta tutto, e da quel momento lì i Black Flag, che stavano cambiando un cantante, era il quarto cantante che avrebbero cambiato, mi viene in mente di chiedere direttamente a Henry Rollins di presentarsi alla prossima audizione, e da quel giorno lui si licenzia e si presenta all'audizione, lo prendono e da lì è entrato nei Black Flag e si trasferisce a Los Angeles. Esatto. You, but I don't know you. Beh, insomma, Henry Rollins, oggi sarà una puntata un po' biografica qui a This Is Not an Exit. Praticamente si fa quello che tanti americani fanno, cioè cambia stato, che è una cosa che per noi è quasi inimmaginabile, ma in America è molto comune. Ricordo che il 30% degli americani mediamente cambia stato ogni 10 anni. Quindi dà origine a tutto ciò uno sradicamento fortissimo che Rollins soffre particolarmente. Ricordo anche che sembra dai suoi racconti, dai suoi articoli, da quello che ha scritto, Rollins scrive e ha scritto tantissimo, che non abbia mai legato particolarmente con nessuno dei componenti di Black Flag, dico bene? Esatto, lui ha sempre tenuto dei diari, come dicevamo prima, riguardo a tutto quello che gli passasse per la testa. Lui lo scriveva e per la precisione ha raccolto i suoi diari in un libro che si chiama Get in the Van, è il suo libro più famoso, ha vinto anche un Grammy mi pare come miglior audiolibro, perché lui l'aveva letto tutto ed era uscito come disco, come audiolibro, e in questo libro parla della sua esperienza nei Black Flag. E è un'esperienza vissuta ai margini quasi, perché il gruppo era già molto coeso, lui era l'ultimo arrivato e non è mai riuscito ad adeguarsi ai, diciamo, ritmi anche di vita del gruppo. Ci ha provato, perché tutti i membri del gruppo si drogavano, lui ha cominciato a drogarsi anche lui, a prendere degli acidi, ma non ha funzionato, nel senso non è servito a creare compattezza, e lui si è sempre sentito come un estraneo quasi nel gruppo. E la musica la scriveva tutta Greg Ginn, lui ha scritto qualche testo e era semplicemente il cantante del gruppo, con tutta una cosa diversa rispetto alla Rollins Band che ha formato successivamente. Sì, non c'era traccia di autogestione o collaborazione tra i vari Black Flag, nonostante lo spirito hardcore che ne faceva tanto proclama. Esatto, e ha in questo senso qui molti aspetti tipici del, diciamo, dell'etica hardcore venivano rispettati. I dischi se li autoproducevano, li vendevano all'inizio per corrispondenza, la SST era un'etichetta piccola all'inizio e questo era rispettato quasi alla lettera. Era una questione più che altro di unità, non so, compattezza e trovarsi bene insieme. In questo senso qui i Black Flag erano abbastanza carenti, perché ognuno andava per la sua e, come dicevo, molti di loro si drogavano e insomma è sempre mancata l'alchimia in questo senso. You're alive. 16:01 minuti primi qui a This Is Not An Exit, siete in diretta. Questa è Radio Città del Capo e stiamo parlando del buon Henry Rollins, che già da ragazzino non si deve essere divertito. Poi non lega neanche con i Black Flag, è vero, gira un po' tutto il mondo e poi però a un certo punto molla, come vuole lui, cerca di inseguire il proprio potenziale artistico, che era notevole nonostante la personalità. Esatto. Oppure grazie anche alla personalità rabbiosa e molto, come dire, energetica. Certo, sentiva il bisogno di creare una cosa sua, e infatti il suo primo disco esce a nome Henry Rollins, anche se di fatto i componenti del gruppo erano già quella che sarebbe diventata la Rollins Band. Lui si trasferisce per il momento a Leeds, in Inghilterra, dove viveva quello che sarebbe diventato il chitarrista della Rollins Band, Chris Haskett, un grandissimo chitarrista, molto personale, il suono che ha creato era inimitabile. E come sfregio, ultimo sfregio al suo compagno di gruppo Greg Ginn, gli frega la sezione ritmica di quello che sarebbe diventato il suo gruppo. Ed erano il gruppo, si chiamano Gone, ed erano un trio fusion, funky, strumentale, e Rollins li porta via bassista e batterista, e da lì nasce la Rollins Band nel 1986, che ancora non si chiama Rollins Band. Il primo disco, Hot Animal Machine, esce a nome Henry Rollins. Allora Matteo, volevo un attimo chiederti, visto che stiamo parlando di Henry Rollins, ma la California, quel periodo, hai prima accennato agli incidenti dovuti, insomma, alla sentenza di assoluzione in primo grado dei quattro poliziotti che picchiarono Rodney King in un'autostrada di Los Angeles. Quindi un po' la California calda, insomma, ma Henry Rollins un po' la raccontava anche nei testi, vero, della Rollins Band, quella California. Fa parte, insomma, del suo bagaglio culturale anche l'antirazzismo, no? Quella storia della polizia comunque violenta che picchia anche un automobilista così solo perché era ubriaco. Ecco, ricordiamo che per quegli incidenti sono state 53 persone morte. Esatto, e qui si torna a bomba al 1993, quando esce il suo libro Now Watch Him Die, che è una raccolta dei suoi diari tenuti tra il 1991 e il 1993, e si parla molto spesso delle rivolte di Los Angeles, che durano da pochi giorni, mi pare, dal 29 aprile al 4 maggio 1992. 92, sì. In cui appunto Los Angeles viene messa a ferro e fuoco successivamente alla sentenza di assoluzione dei poliziotti che avevano pestato a sangue Rodney King. Niente cambia, tutto cambia. Sì, sì, sì. Beh, poi infatti è successo nel 90, l'assoluzione nel 92. Poi in appello comunque due di loro vengono, insomma, arrestati. E in tutto ciò comunque c'è anche un libro interessante che esce nel 93 da una giornalista, Leon Bingo, ex top model anni 70 californiana, che poi a un certo punto molla l'alta moda per dedicarsi al giornalismo. Ed esce questo libro in Italia, edito da Baldini Castoldi, che si chiama Spara o muori, e lei appunto nell'86 decide di andare a conoscere queste, le più famose, quelle più violente di Los Angeles, i Blood e i Crip. E lei conosce questa gente nel quartiere più violento il ghetto più violento di Los Angeles, che è il Watts, e fa questo libro appunto del 93 che consiglio, magari se ancora si trova, Spara o muori, e racconta appunto quello che accadeva e che era accaduto nel 92 appunto in seguito all'assoluzione dei poliziotti. Una California particolare, insomma, violenta. Adesso magari se ne parla più su New York, no, quello che sta succedendo adesso, però insomma 24 anni fa era stesso copione. Sì, allora come oggi è molto difficile incriminare un poliziotto negli Stati Uniti. Do it. Yeah. Ma insomma, comunque, questo Harry Rollins ne aveva da raccontare, perché Los Angeles la viveva bene, non si è mai più spostato da Los Angeles. Una volta trasferitosi da Washington se n'era vissuta bene, una città con tante contraddizioni, ne abbiamo parlato, tra le quali quelle che gli hanno permesso poi anche di diventare un attore. È comparso in un sacco di film, d'altronde vederlo sul palco e anche sentirlo anche solo cantare. Harry Rollins è un personaggio molto teatrale. Sì, che ha avuto un rapporto, come dicevamo, di molto intenso, di amore e odio con la città di Los Angeles. Lui più volte nei suoi libri diceva di volersene andare, di voler scappare, di volersene andare via per sempre. Ne ha parlato malissimo di Los Angeles, dei conflitti razziali che esplodevano proprio in quel periodo, però alla fine non si è mai più spostato di lì. E nel 1994, mi pare, viene chiamato come prima audizione, prima e unica mi pare sua audizione per un film che si intitola Sesso e fuga con l'ostaggio, in cui ironicamente interpreta un poliziotto. Tra l'altro lo interpreta molto bene, è perfettamente credibile. Lui nelle interviste diceva che durante le pause delle riprese usciva per, non so, andare a pranzo, no? Ancora vestito da poliziotto. E lo scambiavano per sbirro? Sì, sì, sì, usciva assieme al regista e pensavano che il regista fosse stato appena arrestato. Matteo, però proprio dal film là, cioè, la cosa che me l'ha attratto, proprio rimasta impressa, era proprio questa la sua faccia con la divisa della polizia, insomma, non si sposavano tanto bene, però era questo sconto, insomma, questo colpo d'occhio abbastanza, sì, che ti attirava in maniera impegnativo, per sì. Chi ne conosce i trascorsi era decisamente impegnativo. Poi quello è un film molto anni 90 e incarna proprio lo spirito dei tempi, dalla colonna sonora al cast, perché il protagonista Charlie Sheen, ma poi ci sono anche molti cameo di musicisti, anchorman della televisione. Ci sono anche Anthony Kiedis e Flea dei Red Hot Chili Peppers, che interpretano due camionisti molto stupidi, tra l'altro, e appunto diciamo conduttori di telegiornali. Adesso non ricordo i nomi, ma insomma è abbastanza un delirio se lo si guarda adesso, soprattutto che sono passati 20 anni e si viene catapultati di nuovo nel 1994. È veramente strano. Invece un film che di serio ci aveva qualcosa è uno dell'89, che è appunto ambientato a Venice Beach, e di Ojai Kodar, l'ultima compagna di Orson Welles, che ha fatto questo film per ricavare un po' di soldi per comprare i diritti dell'ultimo film di Orson Welles che ce l'avevano a Parigi. Quindi lei ha fatto questo film e si chiama Jaded. Consiglio se si riesce a scaricarlo in qualche modo, visto che comunque è l'unico modo magari per riuscire a trovarlo. E Rosario, non si dicono queste cose. Beh, vabbè, il segreto di Pulcinella. Istigazione a delinquere. Arriva Harry Rollins e ci arresta. No, ma lui non c'entra niente, perché comunque è soltanto ambientato a Venice Beach, lui non c'entra niente. È soltanto per quello che raccontavano, insomma, della California di quel periodo, che si chiama Jaded, appunto, che significa reietti, insomma, scoppiati. È un film, insomma, la Ken Loach, un po' di queste storie strane che è ambientata appunto a Venice Beach. È insomma un bel film, che ha vinto dei premi, che però in Italia non è mai stato proiettato. Ecco, soltanto questo volevo dire, che si chiamava Jaded dell'89 e regia di Oja Kodar, ultima compagna di Orson Welles. E questo è sempre il buon Henry Rollins che dice all'inizio di questa canzone: io odio il mondo che penso mi odi. Beh, insomma, doveva essere bello compresso, tipico di quella della società americana di quegli anni, non solo. Sentirsi appunto alienato, solo e poco capito dalle persone che lo circondavano, dovevano portarlo a condizioni di esasperazione che poi esplodevano letteralmente. Chi mai lo avesse visto su un palco il palco che lui stesso definiva il miglior posto dove stare per farsi del male. Insomma, era veramente esplosivo. Però esatto. Vabbè, una cosa volevo aggiungerla. Il fatto che stesse solo, perlomeno in parte, era anche voluto. Nel senso, comunque aveva, secondo me, anche dei seri problemi di socializzazione col prossimo, nonostante tutto. Probabilmente questo qui è stato quella marcia in più, quindi questa rabbia repressa, ulteriormente enfatizzata, che poi ha portato a cercare di esprimersi in altri modi. Quindi vedi radio, vedi libri, vedi musica e quant'altro, sì. Quindi penso che sia una roba, tra virgolette, anche esplosiva, ma c'era una motivazione, secondo me, abbastanza, oltre che sociale, anche psicologica, se vogliamo. Certo, individuale poi soprattutto, perché a lui è stato somministrato il Ritalin da bambino, era un bambino iperattivo, è stato curato con il Ritalin. Il Ritalin, lo ricordo, è praticamente un ansiolitico che davano ai bambini, che danno, non lo so, che si dà anche ai bambini ipercinetici o iperattivi a scuola. Esatto, e dopodiché è stato iscritto dai genitori in un collegio militare solo maschile, e quindi è cresciuto con enormi problemi relazionali, sociali, eccetera. E quindi questo anche vuol dire molto nella sua formazione individuale, quindi certamente l'alienazione, la solitudine, ma in più anche il percorso suo personale. Beh, questo è il nostro Henry Rollins. Un altro aneddoto per i nostri ascoltatori: ricordo una sua intervista a Planet Rock, sempre in questo periodo, in questi anni 92-93 o giù di lì, che durante l'intervista il buon Henry Rollins ha portato la sua valigia di attrezzi e spronava gli ascoltatori a pompare con la ghisa ogni qualvolta fossero incazzati. E quelli di Planet Rock avevano fatto un quiz e chi vinceva il quiz avrebbe vinto la borsa di attrezzi di Henry Rollins. Ricordo ancora il rumore dei clang della borsa appoggiata per terra da Henry Rollins per far sentire che non stava scherzando. Sì, questo fatto di sollevare pesi è sempre stato una componente fondamentale del suo modo di essere. Lui già faceva esercizi fin da prima di entrare nei Black Flag, è sempre stato un, diciamo, molto allenato, ma già dai tempi della scuola militare. E io ricordo la prima intervista che avevo letto a lui su Rockstar, in cui diceva che sollevare pesi e massacrarsi di esercizi fino ed oltre la soglia del dolore fisico era l'unico modo per lui di affrontare la realtà. E questo è un concetto che è andato ripetendo per molte volte nel corso degli anni, e diciamo che si è calmato soltanto di recente, negli ultimi anni. I see. 18 years, staggering in the shadow of intimidation. I take my fear, my humiliation, I crush my fist, I open my hand, I've got a diamond, my diamond is rage. I've got diamonds in my eyes. I'm just like you. I'm just like you. I'm just like you. I'm just like you. I'm just like you. I'm just like you. I'm just like you. Beh, siamo ai saluti qui a This Is Not An Exit. Ricordo che saremo in onda anche sabato prossimo, sempre più o meno alle 15.35, giù di lì, insomma, dopo il giornale radio delle 15.30. Ma con la compagna, vabbè, con la campagna abbonamenti però. Esatto, bravo Rosario. Prossimo sabato, puntata extended di This Is Not An Exit, con quiz, ricchi premi e cotillon, cioè abbonamenti. Abbonatevi! Quindi a sabato prossimo, dai, con la novità degli abbonamenti e ciao a tutti. Ma sì, faremo una bella macedonia dei vai, This Is Not An Exit, chi più ne ha più ne metta. Ciao a tutti. Imbandita. Salutiamo Matteo, il nostro gratito ospite. Ciao a tutti. Allora ringraziamo e per quanto ci riguarda, alla prossima. Ciao.